sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Rendimento ai minimi storici per i BOT, record per il debito pubblico, non sono buone notizie quelle che arrivano dai conti pubblici. Aspettando il debutto di CAI, trattative in extremis con i sindacati per scongiurare agitazioni, conto alla rovescia ormai per la fine di Alitalia. Il super latitante dei casalesi Giuseppe Setola beffa gli inquirenti, trovato il suo covo ma lui fugge dalle fogne. E dai Golden Globe la delusione per il film Gomorra, miglior film straniero, l'israeliano Walzer con Bashir. Israele richiama altri riservisti nella striscia di Gaza, le truppe nelle città, ormai senza nulla. F60, ecco la nuova Ferrari che sfida la crisi e l'aerodinamica, presentazione in anteprima sul web e poi in pista. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. E apriamo dunque con notizie che riguardano il quadro economico italiano. Il record storico al ribasso dei buoni ordinari del tesoro, le loro quotazioni e anche la nuova crescita record invece del debito pubblico. Partiamo allora dai BOT che interessano anche le nostre tasche. Nuovo record minimo per i rendimenti dei BOT ad un anno. Hanno toccato oggi l'1,84%, in calo di 0,793 punti rispetto all'ultima analoga operazione. Ma cerchiamo di capirne di più. Luigi Lazzi Gazzini del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Robusta la domanda da parte degli operatori, con quasi 20 miliardi di titoli richiesti a fronte dei 13 miliardi offerti. Che ha significato questo record al ribasso? Beh, i BOT sono tornati di moda ormai da parecchie settimane. È l'ovvia conseguenza di uno spavento che tutti quanti ci siamo presi da ottobre, da settembre in poi, e con il rischio di una catastrofe finanziaria globale. La gente in generale interessa a posteggiare la liquidità per queste brevi scadenze con una garanzia praticamente assoluta sull'emittente, sul debitore, e un rendimento di cui ci si deve accontentare, che ovviamente è calato e continua a calare, non c'è niente da fare, purtroppo è così. E veniamo... Purtroppo è bene anche. Vabbè, certo. Male è bene, una faccia e l'altra della medaglia in qualche modo. E infatti questo bene lo si può dire non per le nostre tasche ovviamente, ma per il debito, che almeno ecco, trova un suo sollievo dal lato degli interessi. Dal lato degli interessi, però, purtroppo invece le notizie che riguardano l'andamento dei conti pubblici, dati attesi ma che indicano la difficoltà delle nostre finanze, parlano, Luigi, di un nuovo record anche qui del debito pubblico, 1.670 miliardi di euro, cifre che insomma anche solo a dirle sono complicate. No, il discorso del debito è chiarissimo, è di grandissima importanza. Il nostro noto, notissimo punto debole della finanza pubblica non è tanto una questione di disavanzo, è una questione di debito accumulato dai primi anni 70 e mai aggredito realmente, perché è evidente che ogni volta che si crea dei conti sono in disavanzo, il disavanzo si accumula sui precedenti, il debito in valore nominale, in cifra assoluta, continua a crescere. Il dato dato di ottobre è pur rilevante, ma non bisogna guardare a fine anno, insomma, perché poi concorrono non soltanto le emissioni di titoli ovviamente fatte per pareggiare appunto disavanzo, per finanziarlo, ma concorrono anche altre grandezze che si spostano e possono effettivamente fare dei movimenti anche importanti. A fine anno però certamente il debito risentirà non solo del fatto che il disavanzo è cresciuto, ma non sembra così tanto da destare preoccupazioni, più o meno sarebbe in linea col previsto. Il problema è il fatto che il debito si misura in rapporto al prodotto interno lordo, che non sta tutti naturalmente andando bene. Se questo va male, è evidente che il debito tende a giganteggiare. Benissimo, insomma, ci fermiamo qua per ora con Luigi Lazzi Gazzini, grazie per queste spiegazioni. E a completare il quadro delle notizie economiche di giornata c'è anche un dato, anche qua è un calo dei tassi, in questo caso di quelli interbancari sui depositi, l'Euribor a tre mesi sceso al 2,65%, è il minimo dal 24 febbraio del 2006, questa volta sono buone notizie soprattutto per chi paga il mutuo. E veniamo ad un'altra vicenda, perché ormai conto dalla rovescia. Domani a quest'ora vi racconteremo dei primi voli della compagnia aerea italiana. Queste sono le ultime ore di Alitalia. Oggi pomeriggio alle 17.30 si riunirà il CDA per valutare l'offerta Air France, CDA che è già blindato con carabinieri e polizia a guardia della sede di Alitalia. E queste sono proprio le ultime ore riguardano la trattativa che va avanti con i sindacati, proprio per evitare che ci siano intoppi dell'ultimo minuto. Andiamo alla Magliana con Paola Cavadi. Che succede oggi? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. In effetti, alla vigilia della nascita della nuova compagnia non sono ancora tutti sciolti i nodi della trattativa tra i vertici della CAI e i sindacati. Mentre, come avete detto, il CDA della nuova compagnia deciderà oggi se accettare l'offerta di Air France per il 25% di Alitalia, sono riuniti qui alla Magliana, al centro direzionale di Alitalia, i vertici di azienda e sindacati dei trasporti. Sul tavolo ancora è risolta la questione dell'applicazione degli accordi sulle assunzioni del personale di terra. Alcune aperture dimostrate dall'azienda nel fine settimana consentono forse un po' di ottimismo, ma qui alla Magliana i lavoratori sono decisi ad avere risposte chiare sul loro futuro. Circa un centinaio di ex dipendenti all'Italia sta presidiando la hall del centro direzionale, dove è in corso appunto la riunione. Sono molti carabinieri e gli agenti della Guardia di Finanza presenti, ma la situazione è al momento assolutamente sotto controllo. Stasera poi nella sede dell'ENAC si dovrebbe procedere al passaggio di beni, asset e certificazioni da Alitalia a CAI. Ottenuto quindi il certificato di operatore aereo e la licenza di vettore, CAI potrà cominciare a operare. Il primo volo della nuova Alitalia, la Z205, partirà domani da Londra Heathrow alle 6 del mattino e atterrerà a Fiumicino. E da Roma per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Paola Cavadi, continueremo a ritrovarti nei nostri giornali radio ovviamente per tutta la giornata, per tutto il pomeriggio. Debutta CAI, dicevamo, e al suo fianco dovrebbe esserci Air France. Un ritorno ma a condizioni ben diverse da quelle che si prospettavano in primavera. Cosa è cambiato allora in questi mesi? Ce lo racconta Valeria De Rosa. Alitalia, prima e dopo. Un prima segnato dall'offerta Air France, un dopo affidato alla cordata CAI. La primavera scorsa i francesi avevano presentato una proposta che comprendeva tutto il perimetro della compagnia, così com'era. Avevano messo sul piatto 1,85 miliardi di euro, di cui un miliardo subito per azzerare i debiti e 850 milioni in investimenti. Poi avevano previsto azioni Air France in cambio di azioni AZ, con un rapporto di 1 a 70. Lo Stato e gli azionisti di Alitalia sarebbero diventati azionisti, piccoli azionisti, della più grande compagnia europea. 8 mesi dopo, i 20 della cordata italiana hanno pagato 427 milioni, di cui solo 100 versati, per rilevare una parte, quella buona, di una compagnia con un passivo che nel frattempo è cresciuto fino a 3,2 miliardi. Tirando le somme, il debito meno i soldi incassati da CAI e considerando i 500 milioni come mancato introito della proposta Air France, il conto arriva a 3,3 miliardi, che si adagiano sulle spalle dei contribuenti italiani. Anche sul piano occupazionale le offerte sono piuttosto distanti. I francesi avevano messo in conto 2.120 esuberi, coperti per 7 anni da ammortizzatori sociali, il cui costo era per il 20% a carico di Air France e per l'80% a carico dello Stato. La CAI deve considerare anche il personale di Air One, dunque gli esuberi salgono a 7.000. Per 4.000 sono previsti ammortizzatori sociali per 7 anni, coperti per il 100% dallo Stato. Va da sé che i contratti a termine, in entrambi i casi, sono perduti. Sul destino del cargo, invece, i piani convergono. Nel futuro è scritta la chiusura. Stessa convergenza anche sullo scalo varesino della Malpensa, messo da parte in favore di Fiumicino. L'Alitalia firmata CAI ha 300 milioni in cassa, 600 milioni di debito operativo e 490 milioni di debito sugli aerei acquistati da Air One. Air France mette le mani sul 25% della compagnia, che pagherà 300 milioni circa. E chissà se dovrà davvero aspettare 5 anni per diventare l'unico proprietario e tornare così al punto di partenza. E lasciamoci alle spalle la vicenda Alitalia, andiamo con la cronaca. Il super latitante Giuseppe Setola, che è un esponente di spicco del clan dei Casalesi, è riuscito a sfuggire questa mattina alla cattura. Sentiamo come. È scappato attraverso un cunicolo che porta le fogne scavato sotto il suo covo. Così il superlatitante della camorra Giuseppe Setola è riuscito a sfuggire nuovamente alla cattura a Trento La Ducenta. In pochi secondi il boss si è dileguato infilandosi in una botola nel cortile condominiale dell'abitazione di via San Giuseppe Cottolengo, dove si era rifugiato. Ritenuto il capo dell'ala stragista dei Casalesi, è l'ultimo degli alfieri ancora in libertà del gruppo di Francesco Bidognetti, decimato da arresti, pentimenti eccellenti e confische. Setola è accusato tra l'altro di avere organizzato la strage di Castel Volturno, nella quale furono uccisi 6 immigrati. Nel corso dell'operazione di questa mattina i carabinieri di Caserta hanno fermato la moglie Stefania Martinelli, indagata in un procedimento penale per il tentato omicidio dell'imprenditore Raffaele Zippo. I militari hanno anche sequestrato il covo di Trento La Ducenta, dove Setola si nascondeva. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il libro e poi il film che ha riportato davvero in primo piano il clan dei Casalesi è, ormai lo sappiamo, Gomorra. Gomorra che oggi incassa davvero una delusione. Niente Golden Globe, il nostro cinema adesso spera negli Oscar. Sentiamo. Grande delusione oggi per il cinema italiano. È stato Walzer con Bashir di Ari Folman a conquistare infatti l'ambito globo come miglior film straniero e non Gomorra, la pellicola di Matteo Garrone. In una serata in piena tradizione hollywoodiana con il red carpet affollato di star, i Golden Globes sono tornati al consueto sfarzo dopo l'edizione sottotono tutta da dimenticare dello scorso anno a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Miglior film drammatico Slumdog Millionaire, uscito in Italia con il titolo The Millionaire, che si è aggiudicato ben 4 statuette, tra cui quella per il miglior regista Danny Boyle, per la miglior sceneggiatura e per la miglior colonna sonora. Golden Globe per la miglior commedia invece al film di Woody Allen, Vicky Cristina Barcellona. Per quanto riguarda gli attori, una serata indimenticabile per Kate Winslet, che ha vinto ben 2 Golden Globes, uno come miglior attrice drammatica per Revolutionary Road e uno come miglior attrice non protagonista per The Reader. Questo è il suo commento dopo la vittoria. I feel surprised, I feel excited, I'm really, really, really happy. Attore drammatico Mickey Rourke per The Wrestler, finché ha ottenuto un globo anche con la miglior canzone originale scritta da Bruce Springsteen. A Colin Farrell per In the Bruges il premio come miglior attore di una commedia, mentre l'equivalente femminile è andato a Sally Hawkins per Happy Go Lucky. Heath Ledger, morto un anno fa per overdose da farmaci, ha ottenuto invece il Golden Globe alla memoria come miglior attore non protagonista nel Cavaliere Oscuro, ultimo episodio dedicato a Batman. A Wall-E della Pixar, infine, il premio come miglior film animato. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E c'è un ultimo ora che riguarda l'Italia, di cui ci siamo occupati poco fa, e viene dal sindaco di Milano Letizia Moratti, che dice c'è una proposta della Lufthansa per quanto riguarda la partnership con l'Italia, la CAI aspetti, e questo chiede il sindaco di Milano nel giorno proprio in cui invece la CAI dovrebbe ufficializzare il matrimonio con l'Air France. 13:16, le notizie di oggi extra large. Brutta notizia per i conti pubblici, ma anche per i risparmiatori. La resa dei titoli di Stato annuali è infatti scesa oggi all'1,84%, è il record negativo, e Banca Italia ha comunicato che il debito pubblico è tornato a correre nonostante vada bene il fronte delle entrate fiscali. Oggi giornata chiave per la nuova Alitalia, che si prepara a decollare domani, ma potrebbe arrivare la svolta dell'ultima ora. Nel pomeriggio si riunirà il CDA della compagnia per sancire la partnership estera. CAI aspetti, c'è una proposta di Lufthansa, mi auguro che non si decida oggi, ha detto pochi istanti fa il sindaco di Milano Letizia Moratti. In questi minuti riuniti intanto azienda e sindacati, un incontro tra le tensioni presidiato dalle forze dell'ordine. Il superlatitante Giuseppe Setola, esponente di spicco del clan dei Casalesi, mandante della strage di Castel Volturno, è sfuggito questa mattina alla cattura a Trento La Ducenta, in provincia di Caserta. Setola è riuscito a scappare attraverso un cunicolo che porta alle fogne scavato sotto il suo covo. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha inviato rinforzi di riservisti nella striscia di Gaza, dove l'offensiva militare ha provocato oltre 900 vittime palestinesi in 16 giorni e va avanti anche oggi. Intanto Hamas ribadisce no alla proposta di tregua egiziana. Primato a tre nella corsa al consenso dei sindaci Tosi, Chiamparino e Scopelliti, sindaci di Torino, Verona e Reggio Calabria, ottengono i livelli di favore più alti, incassando il consenso di 3 cittadini su 4. Così emerge dall'indagine pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore, nella consueta indagine sul gradimento degli amministratori locali. È presidiata dalle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio, l'area interessata dall'esplosione della bombola di gas nel rione San Girolamo a Bari, che ha causato ieri il crollo di una palazzina e la morte di 3 persone. È polemica sull'uso delle bombole a gas in tutto il quartiere, come raccontano molti cittadini. Era solo con quello che si andava avanti, scaldamento niente, con una stufa semplicemente, col gas propano lì. Io solo quando uscivo si chiudeva tutto, proprio per evitare che succedevano queste catastrofi. Svelata sul web la nuova monoposto Ferrari, la 55esima della storia per il prossimo mondiale di Formula 1. Tra poche ore il pilota brasiliano Felipe Massa sarà in pista per i primi giri al Mugello. Cambia l'aerodinamica per via delle nuove regole. E come annunciato, andiamo dunque a Gaza. Israele ha inviato rinforzi di riservisti nella striscia dove l'offensiva militare ha provocato 900 vittime palestinesi in 16 giorni, ma dall'altra parte gli attacchi con missili Qassam da Gaza contro Israele sono calati della metà, va registrato dall'inizio dell'operazione Piombo Fuso il 27 dicembre scorso. E allora andiamo subito a capire qual è la situazione sul terreno con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno Ugo. Buongiorno, permettetevi di correggervi subito. Sì. Non siamo a Gaza, sfortunatamente non ci siamo ancora stati, perché gli israeliani continuano a impedirci di entrare a Gaza, quindi raccontiamo solo la guerra dalla parte israeliana. Sì, insomma. E questo è un dato, quello, in realtà. È quello che possiamo fare, Ugo. E a proposito di raccontare la guerra dalla parte israeliana, parleremo più avanti dell'emergenza umanitaria a Gaza. Però si parla anche dell'impiego del fosforo nelle armi da parte di Israele, armi al fosforo bianco. Ci sono conferme a questa notizia? Gli israeliani non confermano ma nemmeno smentiscono, nel senso che tra le righe ammettono di usare il fosforo come lo usano tutti gli eserciti NATO, come l'hanno usato in Iraq, in Afghanistan. La differenza però sostanziale che Israele non sottolinea è che il fosforo bianco non è vietato dalla Convenzione di Ginevra se usato in campo aperto, in campo di battaglia. Ed è vero che Gaza è un campo di battaglia, ma anche un territorio piccolo dove vive 1,5 milioni di civili, quindi in questo caso sarebbe vietato. Sta calando un po' l'offensiva israeliana o siamo ancora nel pieno, Ugo? Sì, l'offensiva israeliana sta calando, ma soprattutto sta calando il numero di Qassam che cadono su Israele. E lo dicevamo prima, della metà, dice l'esercito israeliano. Esatto, secondo lo Shin Bet, i servizi segreti israeliani dicono della metà, però comunque ieri, che era domenica, ne sono caduti 22 e oggi ancora solo nella mattinata, fino a poco fa, poco prima che cominciassimo a parlare, ne erano già caduti comunque 13. Il problema è che mentre Israele ha l'obbligo di raggiungere un obiettivo molto difficile da raggiungere, molto oneroso, cioè quello di annichilire almeno militarmente Hamas, l'obiettivo di Hamas invece è infinitamente semplice: avere la capacità di tirare almeno un razzo anche il giorno in cui gli israeliani si ritirassero. Quindi è vero che Israele sta dando dei colpi tremendi alla capacità militare di Hamas, ma il lancio di un Qassam è un'azione estremamente facile che può essere compiuta da chiunque, quindi sarà difficile per Israele, fino a che non concluderà la sua missione militare, sradicare completamente la minaccia che sta minacciando 800.000 israeliani che vivono nel sud di Israele. Leggiamo che il nostro ministro degli esteri sarà proprio nei prossimi giorni, entro il fine settimana, in missione in Medio Oriente, avrà contatti con i leader della regione sulla crisi di Gaza, ed è un annuncio della Farnesina proprio di questi istanti. C'è spazio per la mediazione diplomatica oppure davvero tutto è nelle mani di Israele ad interrompere questa azione, Ugo? Ma più di un ministro europeo è già passato tra Rafa, Gerusalemme, tra Cairo soprattutto e Gerusalemme, senza però appunto ottenere nulla, nel senso che era probabilmente prematuro. Non so se quando arriverà Frattini la situazione diplomatica maturerà. Il cuore della trattativa è il Cairo che si è assunta il difficilissimo onere di cercare la strada per un cessate il fuoco, almeno per un cessate il fuoco che possa permettere poi alle parti di trattare veramente. Naturalmente dipende da Israele, soprattutto da Israele quando decidere di interrompere, di aver raggiunto i propri scopi militari, quindi di interrompere l'azione. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che Hamas continua a giocare come sempre, come da che governa Gaza, nell'ambiguità fra il desiderio all'annuncio di voler comunque cessare il fuoco e l'annuncio invece di dover continuare la lotta fino alla fine. Cioè la cosa fondamentale che serve per almeno avviare un cessate il fuoco, Hamas continua a non volerla concedere, cioè la cessazione del lancio di Qassam e di qualsiasi genere di razzi su Israele, per dimostrare appunto che una tregua vera sia possibile. Grazie Ugo Tramballi, ovviamente avremo occasione di risentirci anche nei prossimi giorni, vista la situazione. Dall'altra parte, in qualche modo, della striscia di Gaza, però qualcuno è riuscito ad entrare, seppure non in tutte le zone, perché ci sono zone dove ancora non raggiungibili per gli sbarramenti delle forze israeliane. Ed è una delegazione del Parlamento europeo guidata dalla vicepresidente, l'eurodeputata italiana di sinistra, Luisa Morgantini. La sua testimonianza l'ha poi raccontata al microfono di Sergio Nava. Una situazione drammatica. Noi eravamo non a Gaza City ma a Rafah, che è una città al sud, al confine con l'Egitto, perché non abbiamo potuto entrare profondamente perché gli israeliani hanno detto alle Nazioni Unite che non avrebbero permesso il nostro passaggio. Quindi siamo stati a Rafah e abbiamo trovato una situazione veramente tragica, centinaia e centinaia di bambini assembrati all'interno della scuola delle Nazioni Unite, sfollati perché le loro case che noi abbiamo visto sono state completamente distrutte, bambini nelle braccia delle loro mamme ancora feriti e non guariti, e soprattutto una mancanza veramente di tutto. La città era deserta malgrado ci fosse. Noi siamo entrati per esempio quando c'è stata la tregua, però la tregua non è stata rispettata perché sono stati sparati dei colpi che noi abbiamo sentito benissimo, che era a 100 metri dalle Nazioni Unite, e mancanza di cibo, mancanza di medicinali, l'UNRWA stessa non ha abbastanza cibo da distribuire, è veramente una cosa insostenibile. I bambini non dormono più, le donne, gli uomini non dormono più, vi sono facce sconvolte e molti di loro dicono perché. Qual è il morale anche, diciamo, dei rappresentanti della comunità internazionale? Lei cita spesso anche l'ONU, c'è un senso di impotenza? Penso che i rappresentanti delle Nazioni Unite che sono a Gaza sono fantastici, straordinari, il lavoro che fanno è assolutamente eccezionale. Quello che invece fa la comunità internazionale, l'impotenza è solo dovuta alla non volontà politica, perché in realtà io credo che sia tempo, dopo 40 anni di occupazione militare della Cisgiordania e Gaza, che Israele comincia ad osservare la legalità internazionale. Certamente bisogna fermare Hamas, non si può assolutamente permettere che vengano sparate dei rocket sulla popolazione civile israeliana, ma la realtà è che qui ci sono bombardamenti, bambini, donne che vengono uccise, ormai sono più di 800 e 3.000 feriti, e i feriti sono senza cure, e ci diceva un medico, non avevo potuto andare all'ospedale, ma il medico che era lì nella scuola ci diceva che ormai sono costretti ad amputare perché non hanno assolutamente strumenti per poterli curare. E ora la nostra finestra sul mondo arabo, che anche oggi è dedicata inevitabilmente alla guerra in corso a Gaza. I timori per un imminente attacco dell'esercito israeliano nel centro abitato di Gaza City e la delusione per il fallimento dell'iniziativa egiziana per un immediato cessate il fuoco domina le aperture dei giornali arabi di oggi. Davanti a tanto sangue versato, il libanese Assafir titola: «Sono oltre 5.000 tra martiri e feriti, ma il nemico non si è ancora dissetato». Mentre si fanno più pressanti gli appelli per l'emergenza umanitaria, la TV satellitare Al Jazeera mostra le immagini di persone con gravi ustioni che sarebbero state colpite con bombe al fosforo bianco. L'emittente parla di violenti combattimenti nei quartieri di Gaza City e di incessanti colpi di artiglieria anche durante le 3 ore di tregua giornaliera. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. האחרון לא היטיב עם הישראלים. E siamo passati dalla parte di Israele, dove imperversa la satira, oltre alle vignette satiriche sui quotidiani nazionali che esorcizzano la paura, per esempio, dei razzi e l'ideologia jihadista, sta spopolando uno show sul canale televisivo numero 2, di cui sentiamo in sottofondo alcune parti. Si chiama Eretz Nederet, ossia Paese Meraviglioso. In studio, per esempio, compare un finto ministro della difesa, Ehud Barak, che in una conferenza stampa risponde infastidito alle domande sui danni collaterali. Come potevamo sapere che quello colpito era un asilo? Mica ce l'avevano scritto sopra in ebraico. Insomma, la guerra vista anche attraverso la satira televisiva, in questo caso in Israele. Per esorcizzare davvero la guerra, la TV. Ieri, ma venendo in Italia, grande spettacolo invece sulla TV italiana per lo speciale di Rai 3 dedicato ai 10 anni dalla morte di Fabrizio De André, con il contributo di molti artisti. In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità. A me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra, i suoni era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Il suonatore Jones, cantato da Jovanotti, in ricordo di Fabrizio De André. E tutta la settimana alle 15, speciale dedicato a Fabrizio De André, anche per Radio 24. 13:32 minuti e 30 secondi, le notizie di oggi extra large. Brutta notizia per i conti pubblici, ma anche per i risparmiatori. La resa dei titoli di Stato annuali è infatti scesa oggi all'1,84%, il record negativo per le troppe richieste. Banca Italia intanto ha comunicato che il debito pubblico è tornato a correre, nonostante vadano bene il fronte delle entrate fiscali. Oggi giornata chiave per la nuova Alitalia, che si prepara a decollare domani. Nel pomeriggio il CDA della compagnia per sancire la partnership con Air France, ma il sindaco di Milano Letizia Moratti lancia un appello in extremis e invita CAI a valutare anche Lufthansa. In questi minuti riuniti azienda e sindacati. Il super latitante Giuseppe Setola, esponente di spicco del clan dei Casalesi, mandante della strage di Castel Volturno, è sfuggito questa mattina alla cattura a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Setola è riuscito a scappare attraverso un cunicolo che porta alle fogne scavato sotto il suo covo. Delusione intanto per il film Gomorra, Walzer con Bashir, il film di animazione israeliano di Ari Folman, ha vinto il Golden Globe per la migliore opera straniera, categoria in cui era in corsa anche la pellicola italiana. Ed Ari Folman un messaggio di ottimismo per i conflitti in Medio Oriente. Oh yeah, I'm very optimistic, otherwise I wouldn't have done this film. Sono molto ottimista, ha detto ritirando il premio, altrimenti non avrei fatto questo film. È solo una questione di leader. Arriverà il tempo in cui entrambi le parti avranno capi più capaci che raggiungeranno una soluzione. E intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha inviato rinforzi di riservisti nella striscia di Gaza, dove l'offensiva militare ha provocato oltre 900 vittime palestinesi in 16 giorni. Intanto gli attacchi con missili Qassam da Gaza contro Israele sono calati della metà dall'inizio dell'operazione il 27 dicembre scorso. Hamas però rifiuta la proposta di mediazione egiziana. Lutto cittadino a Bari dopo l'esplosione della bombola di gas nel rione di San Girolamo, che ha causato ieri il crollo di una palazzina e la morte di 3 persone, ma polemica sull'uso delle bombole a gas in tutto il quartiere. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Era solo con quello che si andava avanti, scaldamento niente, con una stufa semplicemente, col gas propano lì. Io solo quando uscivo si chiudeva tutto, proprio per evitare che succedevano queste catastrofi. E questo ovviamente non era il sindaco, ma dei cittadini di Bari. Svelata sul web la nuova monoposto Ferrari, la 55esima della storia per il prossimo mondiale di Formula 1. Tra poche ore il pilota brasiliano Felipe Massa sarà in pista per i primi giri al Mugello. Cambia l'aerodinamica per via delle nuove regole. La vignetta di Krančić questa mattina su Il Giornale. Roccaraso prosegue il dibattito sulla giustizia. Il comitato Di Pietro, questo sarà uno dei temi ovviamente in discussione, quello della giustizia. E intanto però imperversa ancora il caso Rai Villari, che si intreccia, adesso sentiremo anche come, con il dibattito sulla giustizia. Ieri in una lettera al Corriere firmata dai capigruppo del PDL alla Camera e al Senato, ha sancito la svolta sul caso. Il Partito del Popolo delle Libertà non sostiene più il presidente eletto della Commissione di Vigilanza Rai, ha annunciato che anche il partito di maggioranza lascerà infatti la Commissione finché non arriveranno le dimissioni del senatore napoletano. Giancarlo Mazzucca, membro per il PDL della Commissione, spiega così al microfono di Paolo Piacenza le ragioni di questo cambiamento di linea. Ormai la situazione della Rai aveva un impasto tale per cui bisognava in qualche modo cercare di forzare le cose, e questa mi sembra che sia la strada giusta per poter poi arrivare in tempi brevi alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI. Ecco, c'è anche il segno di un cambiamento di rapporti tra maggioranza e opposizione a partire dalla questione della giustizia, evidentemente. Sì, questo è molto positivo, perché al di là della vicenda della vigilanza RAI, che poi interessa soltanto un certo livello di cittadini, questo atto di buona volontà da parte del centrodestra, che è stato apprezzato, ho visto oggi le reazioni da parte di molti esponenti del Partito Democratico, serve anche per creare un nuovo dialogo, proprio alla luce di quanto aveva auspicato il Presidente della Repubblica Napolitano il giorno di San Silvestro. Ecco, che cosa succederà ora? Ci sono posizioni anche tecniche che dicono che in realtà poi tutto dipende da un atto volontario di Villari. Anche la vostra opinione, avete, come dire, delle carte da giocare nel caso Villari decidesse di resistere? Ma io credo che sia soprattutto anch'io un atto di volontà da parte di Villari. Io credo che Villari in questo mese, che ho avuto un modo anche di conoscerlo, mi sembra una persona assolutamente squisita, capisce la situazione, e quindi credo che anche di fronte alla possibilità di rientrare in qualche modo, questa è un po' la nostra speranza come PDL, di rientrare in qualche modo nel suo partito, e quindi anche che l'atto di espulsione venga revocato, io credo che Villari senz'altro rientrerà nei ranghi. L'ultimo punto riguarda la scelta del prossimo presidente. Siete sempre disponibili a votare Sergio Zavoli? Senz'altro, io tra l'altro personalmente conosco da una vita Sergio Zavoli, che è romagnolo come me, quindi sono più che mai contento che un personaggio come Zavoli possa arrivare al vertice della vigilanza RAI. E come sentivamo nell'intervista anche a Giancarlo Mazzucca, il caso Villari potrebbe in qualche modo spianare la strada anche ad un accordo tra maggioranza e opposizione in tema di giustizia. E poco fa l'intervento del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, che a proposito di una possibile riforma proprio della giustizia che si va delineando in queste ore, ha invocato non invasioni di campo tra istituzioni, ma sentiamo Flick. Se nei rapporti tra popoli e culture preferisco i ponti ai muri, nei rapporti tra organi istituzionali preferisco i confini alle invasioni di campo. Un rispetto reciproco, vorrei dire una sensibilità istituzionale, senza i quali una Costituzione né si può rileggere né si potrebbe riscrivere. Svelata sul web in attesa del debutto in pista, presentata oggi la nuova monoposto Ferrari, la 55esima della storia per il prossimo mondiale di Formula 1. Il progetto rappresenta l'interpretazione del regolamento in vigore da quest'anno e quindi ovviamente con molte novità. Oggi pomeriggio Felipe Massa farà appunto i primi giri in pista. E allora andiamo nei pressi della pista. Enrico Pagliarini, ci sei? Buongiorno, ci sono. Beh, diciamo subito che sono al Mugello, perché, ecco. Perché di solito le presentazioni vengono fatte nella casa, nei quartieri generali della Ferrari Maranello invece. Sul circuito di Fiorano, ma quest'anno, causa le nevicate degli ultimi giorni, a Fiorano in pianura la pista è in pessime condizioni, ghiacciata. Noi siamo qui sul Mugello, circuito di proprietà della Fiat, quindi insomma siamo sempre in casa Ferrari. La giornata è splendida, il circuito qua non è mai nevicato, quindi qua le condizioni sono perfette. Sei riuscito a vederla? Non ancora, ci porteranno più tardi. Beh, anche noi giornalisti l'abbiamo vista sul web. Come e questa resto. È la novità di quest'anno. Esatto, beh sì, questo va un po' nella tendenza generale della Formula 1 che spende meno soldi. Quest'anno sarà sicuramente una Formula 1 low cost, alcune case presenteranno solo ed esclusivamente la macchina sul web, la Ferrari naturalmente non può presentarla solo sul web, oggi appunto i primi test in pista, qualche giro è stato fatto anche questa mattina, comunque sono i test veri e propri oggi pomeriggio, poi vedremo anche Massa, parleremo con lui e faremo quattro chiacchiere per capire insomma quali saranno le sensazioni. Vi dico due cose sulle novità più interessanti, la prima è quella estetica, scompaiono tutte le pinne, le altre soluzioni strane che abbiamo visto negli ultimi anni dal telaio, insomma sarà un'auto dalle più semplice, forme più semplice sì, molto più liscia, salta subito all'occhio il grande alettone anteriore, quindi lo vede anche proprio un non esperto, tutte novità volute dalla Federazione Internazionale, a cui si aggiunge l'ormai famoso KERS, che è un sistema che recupera energia durante le frenate e la rilascia per circa 6 secondi ogni giro. Questo è un sistema che dovrebbe permettere ai piloti di avere più potenza per i sorpassi, lo speriamo, saranno infatti loro i piloti a decidere quando usare questo spunto in più, e anche per questo motivo si aggiunge un pulsante in più sul volante che insomma sta diventando veramente complesso. Ma è anche una forma di risparmio energetico questa o no? Potrebbe essere, sì, beh certo, questo va nella direzione di una Formula 1 un po' più amica dell'ambiente, poi vedremo se questo avrà ricadute anche sulle Enrico, auto. Ancora una curiosità, poi ti lasciamo. Tu dicevi presentazione meno in pompa magna anche per la crisi, ma c'è davvero aria di low cost lì o a casa Ferrari no? Beh, insomma. Diciamo così, anche la Ferrari un po', lo hanno detto del resto anche Stefano Domenicali, che è il direttore sportivo della squadra, ha detto insomma che anche la Ferrari sta cercando di risparmiare. Diciamo che in generale la Formula 1 è un mondo molto ricco dove arrivano molti soldi dagli sponsor in primis e le case investono molto insomma in ricerca e sviluppo. La Ferrari è un po' un mondo a parte dove effettivamente insomma i budget sono sempre più elevati rispetto alla media. Vi dico due cose negli ultimi secondi, vedremo di nuovo le gomme lisce, le slick, e poi vedremo insomma tante altre novità che forse rimangono per il momento segrete, come ogni anno insomma ci sono alcune novità poi che scopriremo nel corso dell'anno. Grazie Enrico Pagliarini. E se al Mugello siete in attesa di vedere la Ferrari, noi siamo in attesa di vedere e di avere notizie per quanto riguarda la crisi del gas. Oggi nuovo incontro a Bruxelles tra i rappresentanti di Mosca e Kiev per l'approvvigionamento del gas in Europa. A vedersi saranno i vertici della compagnia ucraina Naftogaz e la loro controparte, il colosso russo Gazprom, che si stanno opponendo, come sapete, nella disputa sulle forniture di metano. Andiamo sulle pagine dei giornali stranieri con Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dove ci porti? In Francia? In Francia è una notizia secondo me buonissima, il titolo in prima pagina ha tre colonne, film, mostre, puntini, puntini, proprio così il titolo, la cultura non conosce crisi, è il bilancio che Le Monde fa dell'anno che si è chiuso, i biglietti dei cinema sono la vendita di biglietti dei cinema è cresciuta del 7% rispetto al 2007, soprattutto sono aumentate le visite, quello che la visita ai musei, quello che Le Monde chiama il mammut di colore, cioè il famoso Centre Pompidou di Francia, che tra l'altro era stato ristrutturato da un giovanissimo Renzo Piano tanti anni fa, era stato creato da un giovanissimo Renzo Piano e poi ristrutturato nel 2000, i visitatori sono cresciuti del 67%, quindi un po' il senso, visto che la crisi non è certo si è intensificata a ottobre ma era in atto già nei mesi precedenti, il senso dell'articolo di Le Monde è tutto sommato in tempi di crisi la spesa per la cultura è ancora gestibile, meno alta di altre spese e i francesi non ci rinunciano, anzi. E poi invece ci porti in Gran Bretagna per una notizia un po' più complicata insomma da capire. Questo è, naturalmente sappiamo che in tutti i paesi si discute molto delle nuove possibilità che danno gli screening genetici, per esempio si potrebbe capire, si potrebbe individuare prima della nascita se un feto ha il gene dell'autismo e in questo caso l'aborto potrebbe essere permesso e tutto condizionale anche in tempi diversi da quelli stabiliti dalla legge, cioè oltre il terzo mese. Naturalmente è tutto da vedere, fa un po' paura questa possibilità di appunto sapere prima quali sono le malattie del bambino, del feto e quindi del bambino e dare la possibilità a questa, alle madri la possibilità di abortire. La previsione del Guardian infatti è che gli aborti sicuramente aumenterebbero, in Inghilterra stanno già aumentando molto negli ultimi anni per una serie di fattori, tra cui le ragazze molto giovani sotto i 18 anni che restano incinte, e quindi sarà sicuramente una misura tecnicamente possibile, ma poi davvero implementabile a livello medico vedremo. Grazie a Giulia Crivelli, ci ritroviamo domani. E un altro tra gli appuntamenti di XL è quello con i consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Mantova, in una piazza bellissima, Piazza delle Erbe. Qui ci sono diversi ristoranti, uno in particolare, 100 Rampini si chiama, ed è un locale che fa una cucina tradizionale, legata al territorio ma di grandissima qualità. E allora si possono assaggiare ovviamente una serie di salumi, ma soprattutto i primi sono consigliabili, anche perché si può iniziare con gli agnoli in brodo oppure sorbir d'agnoli, magari con un'aggiunta di cucchiaio di un lambrusco ovviamente mantovano. Si può proseguire con i tradizionali tortelli di zucca, anche questi di grandissimo livello. Poi in questo periodo si può mangiare un bel cotechino con purè di patate, e poi si può passare anche i dolci, dove sicuramente la sbrisolona non manca mai, così come in questo periodo non manca neppure la polenta. Lo ripeto, 100 Rampini, Piazza delle Erbe a Mantova. 13:48 minuti, le notizie di oggi. Brutta notizia per i conti pubblici ma anche per i risparmiatori. La resa dei titoli di Stato annuali è infatti scesa oggi all'1,84%, record negativo per la troppa richiesta. Giù anche i rendimenti di quelli a tre mesi. Banca Italia intanto ha comunicato che il debito pubblico è tornato a correre nonostante vada bene il fronte delle entrate fiscali. La nuova Alitalia si prepara a decollare domani. Si riunisce nel pomeriggio il CDA della compagnia per sancire la partnership con Air France. Non dimenticate Lufthansa, l'appello però in extremis del sindaco di Milano Moratti, l'offerta c'è. E in questi minuti ancora riuniti aziende e sindacati per evitare in extremis agitazioni il giorno del debutto. Esponente di spicco del clan dei Casalesi, mandante della strage di Castel Volturno, il superlatitante Giuseppe Setola, è sfuggito questa mattina alla cattura a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Setola è riuscito a scappare attraverso un cunicolo che porta alle fogne, scavato sotto il suo covo. Delusione per il film Gomorra, Walzer con Bashir. Il film di animazione israeliano di Ari Folman ha vinto il Golden Globe per la migliore opera straniera, categoria per cui era in corsa la pellicola italiana, ed Ari Folman un messaggio di ottimismo per i conflitti in Medio Oriente. Oh yeah, I'm very optimistic, otherwise I wouldn't have done this film. Sono molto ottimista, ha detto ritirando il premio, altrimenti non avrei fatto questo film. È solo una questione di leader. Arriverà il tempo in cui entrambe le parti avranno capi capaci che raggiungeranno una soluzione. E intanto l'esercito israeliano ha inviato rinforzi di riservisti nella striscia di Gaza, dove l'offensiva militare ha provocato oltre 900 vittime palestinesi in 16 giorni. Intanto gli attacchi con missili Qassam da Gaza contro Israele sono calati della metà dall'inizio dell'operazione Piombo Fuso il 27 dicembre scorso. La vicepresidente del Parlamento europeo, eurodeputata di sinistra Luisa Morgantini, è entrata ieri nella striscia di Gaza. Siamo stati a Rafah e abbiamo trovato una situazione veramente tragica, centinaia e centinaia di bambini assembrati all'interno della scuola, di una scuola delle Nazioni Unite, sfollati, e soprattutto una mancanza veramente di tutto. Noi siamo entrati per esempio quando c'è stata la tregua, però la tregua non è stata rispettata perché sono stati sparati dei colpi che noi abbiamo sentito benissimo. Lutto cittadino a Bari dopo l'esplosione della bombola di gas nel rione di San Girolamo, che ha causato ieri il crollo di una palazzina e la morte di tre persone, ma è polemica sull'uso delle bombole a gas in tutto il quartiere. Svelata sul web la nuova monoposto Ferrari, la 55esima della storia, per il prossimo mondiale di Formula 1. Tra poche ore il pilota brasiliano Massa sarà in pista per i primi giri al Mugello, cambia l'aerodinamica per via delle nuove regole. Primato a tre nella corsa al consenso dei sindaci, Tosi, Chiamparino e Scoppelliti, sindaco di Torino, Verona e Reggio Calabria, ottengono i livelli di favore più alti, incassando il consenso di 3 cittadini su 4. Così emerge dall'indagine pubblicata questa mattina da Il Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali, di cui abbiamo ampiamente parlato anche noi a Radio 24, a Dietro la Notizia. E al 56esimo posto, invece, con il 53% solamente dei consensi, il sindaco di Bari, Michele Emiliano, un dato forse incrinato dalla vicenda della palazzina crollata per una fuga di gas. La polemica ruota infatti attorno ai vecchi sistemi di riscaldamento ancora usati in città, le vecchie bombole a gas usate non solo nella palazzina crollata ma in molti altri palazzi di Bari, come racconta al microfono di Giovanni Longo, un barese che abita proprio nello stesso quartiere della palazzina crollata. Era solo con quello che si andava avanti, riscaldamento niente, con una stufa semplicemente, col gas propano lì. Io solo quando uscivo si chiudeva tutto proprio per evitare che succedevano queste catastrofi. Secondo te che cosa può essere successo nella palazzina adiacente alla tua? Io sono solo spaventato dal botto forte e non aver visto più mia moglie che era caduta fra le macerie, era caduta fra le macerie. E Maria Luisa Pezzali ha intervistato una risposta alla chiesta al sindaco di Bari, Michele Emiliano. Tutto il quartiere è completamente coperto dalla rete del metano, la palazzina a destra e a sinistra di quella oggetto dell'esplosione sono servite dalla rete del gas di città e lì non è mai stata fatta nessuna richiesta di allaccio ed è questa la ragione per la quale non c'era il gas di città. Quindi è stata una scelta dei condomini? Dei proprietari, probabilmente. Io ho visto che c'erano dei termosifoni, probabilmente c'era un impianto a gasolio che evidentemente doveva essere convertito. La conversione dell'impianto a gasolio in metano è piuttosto onerosa e non è stata realizzata. Per il resto della città ci sono problemi di allacciamento? No, assolutamente no. Bari è una città allacciata al gas metano persino nei centri storici, per esempio Bari Vecchia sotto la mia amministrazione è stata quasi totalmente metanizzata. Ovviamente rimane il fatto che ciascun proprietario di casa deve chiedere l'allaccio, questo allaccio costa qualche centinaio di euro, quindi non moltissimo, ma per alcuni o l'abitudine o chissà quali altre ragioni non spingono tutti a chiedere l'allaccio, nel senso addirittura noi abbiamo fatto un programma per l'allaccio anche nelle strade private. Per cui i condomini che insistono su strade di proprietà non comunale sono comunque metanizzabili. Però per esempio sulla media è che su 20 villette o condomini esistenti in queste zone un po' più particolari, diciamo il 50% richiedono poi in concreto l'allaccio, gli altri continuano ad utilizzare le bombole o forse perché si ritiene che il consumo sia minimo o per altre ragioni che adesso onestamente non abbiamo investigato. Però Bari è una città totalmente metanizzata. E da Bari città al Salento, dove l'emergenza sono ancora una volta i rifiuti, sentite. Una discarica piena di rifiuti tossici con un imprenditore, Bruno Colitti, che si è autodenunciato alla magistratura ammettendo di aver scaricato di tutto in quel di Burgesi, nel Salentino. Adesso la falda acquifera è piena e la gente comincia ad ammalarsi. Intanto però, grazie alla denuncia di Colitti, il 14 gennaio ricominceranno i carotaggi nella discarica. Una storia tremenda, come ci racconta il coordinatore regionale dell'Italia dei Valori, Pier Felice Zazzera. Un'autodenuncia che dove ci sono anche particolari agghiaccianti, cioè lui ha informato il sindaco di Ugento che gli è stato chiesto di sversare rifiuti tossici e illegali nell'area che doveva essere bonificata, dove lui dice ci sono pneumatici, auto, cariche di batteria delle auto, viene addirittura sversato il telo con il percolato. E il sindaco, da quello che si legge nell'autodenuncia, il sindaco praticamente ha lasciato fare assolutamente tutto. Una storia che ha già una vittima, Peppino Basile, un cittadino di Ugento che faceva parte di quei comitati spontanei che più volte aveva denunciato traffici notturni ed è stato ucciso con 19 coltellate davanti alla porta di casa. Nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Però Don Stefano Rocca, parroco di Ugento, sta rischiando la vita per arrivare alla verità. Questo cristiano non è che è morto subito, cioè nel senso che non l'hanno pugnalato ed è, no, come dire, da quello che si dice abbia gridato, assurdo, che nessuno abbia visto, è inutile. Io so che i vicini di casa con me hanno tagliato, infatti a Natale non sono manco venuti alla messa, in parrocchia da me sono andati in altre chiese, che se la stanno prendendo con me, ma a me non interessa, che se la prendono con chi vogliono. Però la verità deve uscire e nessuno deve dormire tranquillo, non possiamo metterci la coscienza a posto. Io credo che nessuno debba mettersi la coscienza a posto finché non esce la verità del suo delitto, che è vergognosissimo, più della spazzatura. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E da un sindaco all'altro, perché i militari dell'esercito sono arrivati a Portici a Napoli dopo le ripetute sollecitazioni del sindaco della città Vincenzo Cuomo, che dopo l'incendio, ricorderete, del ristorante Ciro Amare aveva richiesto un rafforzamento del controllo del territorio da parte dello Stato contro il racket. Oggi, questa mattina, è arrivata la risposta: sono arrivati 50 militari, tra cui agenti di polizia, che copriranno 3 turni per controllare la città. Il riepilogo delle principali notizie. Rendimento ai minimi storici per i bot, record per il debito pubblico. Non sono buone notizie quelle che arrivano dai conti pubblici. Aspettando il debutto di CAI, trattative in extremis in corso con i sindacati per scongiurare domani agitazioni. Il CDA si riunirà del pomeriggio. Il sindaco di Milano Moratti dice: aspettate, Lufthansa è ancora in campo. Giuseppe Setola, super latitante dei casalesi, beffa gli inquirenti, trovato il suo covo ma lui fugge dalle fogne. E dai Golden Globe la delusione per il film Gomorra, vincitore come miglior film straniero, l'israeliano Walzer con Bashir, l'Italia aspetta gli Oscar. Israele richiama altri riservisti nella striscia di Gaza, le truppe nelle città ormai senza nulla, Hamas rifiuta la mediazione egiziana. F60, ecco la nuova Ferrari che sfida la crisi e l'aerodinamica, presentazione questa mattina in anteprima sul web e tra pochi minuti sarà invece in pista. GR Extra Large è tutto per questa edizione. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Peter Bescapè. Extra Large, @radio24.it. Come sempre, se volete scriverci, noi vi aspettiamo domani a partire dalle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.